Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Oggi a Destini Incrociati vogliamo raccontarvi una storia un po' particolare. Ma prima di iniziare, c'è qualcosa che vogliamo farvi ascoltare. Si tratta di Karabieniki, letteralmente venditori ambulanti, una famosa canzone popolare russa. L'avete ascoltata, ma probabilmente pochi di voi l'avranno riconosciuta. Eppure questo motivo, che arriva dal freddo delle steppe siberiane, è una delle canzoni più ascoltate al mondo. Forse la riconoscerete meglio in questo arrangiamento. Se ancora non l'avete riconosciuta, siamo però certi che per la maggior parte di voi ha un suono familiare. È la musichetta di sottofondo del videogioco più diffuso al mondo, il Tetris. Vi forniamo qualche dato di questo videogioco, tanto per chiarire di cosa stiamo parlando. Oltre 130 milioni di copie sparse in tutto il mondo. Un successo che non conosce soste fin dalla sua creazione, nel 1985. Oltre 100 milioni di download a pagamento per tutti i tipi di cellulari. Un giro d'affari ormai incalcolabile, che solamente per la versione per telefonino ha portato nelle casse dei suoi produttori qualcosa come $1 miliardo. La sua grande diffusione in ogni parte del mondo colloca Tetris al vertice di tutti i videogiochi mai inventati, più venduto dei famosissimi e diffusissimi Pokémon o Super Mario. Ma i suoi primati non si fermano qui. Per scoprirli tutti, vi invitiamo a fare un viaggio con noi nel tempo e nello spazio. Dobbiamo infatti recarci a Mosca nel gennaio del 1985. I rigori dell'inverno moscovita fanno da contraltare al clima di guerra fredda che grava sul paese. Gorbaciov deve ancora fare la sua comparsa sulla scena politica e la perestroika è un termine sconosciuto al mondo occidentale. Il sistema economico sovietico è al collasso e la libertà politica un sogno lontano. Eppure, in questo panorama non prettamente positivo, esiste a Mosca un'isola felice, il Darodnichin Computing Center dell'Accademia Sovietica delle Scienze, centro di ricerca e sviluppo fondato dal governo. Un luogo dove sono riunite le menti più illuminate del paese, dove la libertà intellettuale e la creatività trovano la loro massima espressione. Potevamo entrare in contatto con qualsiasi cosa ci interessasse, in maniera del tutto libera. In questo eravamo privilegiati rispetto agli scrittori e ai filosofi. Nessuno ci influenzava sotto il profilo ideologico. La voce che avete appena sentito è quella di un ingegnere elettronico sovietico che nel Computing Center passa le sue giornate. Sa perfettamente di essere un privilegiato, avendo accesso a tutte le informazioni che arrivano dall'estero, ai raggiungimenti nelle varie discipline scientifiche che vedono i suoi colleghi americani, europei, asiatici, confrontarsi e scambiarsi reciprocamente notizie. Nel suo paese questa libertà non esiste. La gente non conosce quello che avviene oltre la cortina di ferro. Sono in pochi coloro che possono accedere liberamente alle informazioni che arrivano dal resto del mondo. Una di queste fortunate persone è lui. Alexei Leonidovich Pajitnov. Alexei Leonidovich Pajitnov. Mentre è al lavoro all'Accademia delle Scienze di Mosca, Alexei sta pensando che la sua professione lo conquista ogni giorno di più. Si può considerare un uomo intellettualmente libero, cosa che a lui preme più di qualsiasi altra. Inoltre, la fiorente industria aerospaziale sovietica gli fornisce continui spunti di ricerca, un argomento che lo affascina sin da piccolo. In questo periodo sta studiando le traiettorie dei satelliti artificiali orbitanti, gli Sputnik. Alexei Pajitnov, 29enne, ingegnere elettronico di Mosca, lavora all'Accademia Sovietica delle Scienze, dove ha la libertà di venire in contatto con tutte le più recenti scoperte scientifiche del mondo, nonostante il clima di guerra fredda che si respira nella metà degli anni Ottanta in Unione Sovietica. Il suo è un lavoro sui generis, lo si può definire un pioniere dell'elettronica, un campo che lo appassiona fin da molto giovane. Ma non è il suo unico pallino, come racconta lui stesso. Ho sempre amato i giochi da tavolo e i puzzle. Quando ero uno studente dedicavo tantissimo tempo ad attività come gli scacchi, la dama, ci passavo le giornate. Poi mi sono appassionato ad un gioco molto semplice che si chiamava pentomino. Consiste in 12 pezzi di forme diverse ma tutti composti da 5 quadrati che devono essere incastrati tra di loro in maniera da formare un rettangolo perfetto. Pajitnov ha un'intuizione. Decide di unire le sue passioni, il computer e il suo puzzle preferito, il pentomino. Gli viene in mente di trasferire il gioco sul suo processore, ma non è un'impresa facile, come ricorda Mikhail Kulagin, programmatore e collega di Alexei. Per alcuni mesi si trattò di un lavoro incomprensibile, che nessuno capiva. Qualcosa cambiava sullo schermo, ma non era chiaro che cosa fosse. L'unica certezza che avevamo era che Alexei fumava una quantità enorme di sigarette. Alexei Pajitnov sta lavorando al suo pentomino elettronico. Chissà perché non ha la sensazione di perdere tempo, si sente in procinto di fare una grande scoperta. La prima cosa che fa è ridurre a 4 i componenti quadrati dei singoli pezzi che compongono il gioco. 5 gli sembrano troppi da gestire sul computer. Da loro forme diverse, colori differenti. Ma poi, cosa farci con questi pezzi di puzzle? Come muoverli? Alexei sinceramente non lo sa. Per questo, come fa di solito, si affida ai suoi più cari amici, Galileo Galilei, Isaac Newton e Albert Einstein. È a loro che l'ingegnere si rivolge ogni qualvolta ha un dubbio, una difficoltà, un problema da risolvere. Nei suoi lunghi anni di studi si è convinto che i tre grandi scienziati abbiano sempre una soluzione pronta a qualsiasi dilemma. La loro indiscussa grandezza di pensiero si vede proprio da questo, dall'universalità delle loro idee e delle loro scoperte. E anche questa volta Alexei non rimane deluso. Qual è quell'argomento intorno al quale tutti e tre i suoi grandi consiglieri hanno lavorato incessantemente per tutta la vita? Risposta semplicissima: la gravità. La più grande scoperta di tutti i tempi, come sottolinea il professor James Gate Jr. della University of Maryland. Galileo, Newton, Einstein. Grazie a loro e agli studi sulla forza di gravità e le teorie gravitazionali, siamo in grado di spiegare tutto quello che avviene sulla Terra e nell'universo. I corpi cadono verso il basso, questo è un dato di fatto. Si va ripetendo Alexei Pajitnov. Perfetto! Allora i suoi pezzetti di puzzle, che ha ribattezzato tetramini, dal prefisso greco tetra, 4, devono cadere verso il basso. Ne inventa 7, il risultato di tutte le possibili combinazioni che si possono ottenere disponendo 4 quadrati, ciascuno dei quali ha almeno un lato in comune con almeno uno degli altri 3 quadrati, e da loro una colorazione differente. Li chiama con le lettere dell'alfabeto che più si avvicinano alla loro forma: I, T, O, L, J, S, Z. I tetramini cadono giù uno alla volta e il compito del giocatore è ruotarli e muoverli in modo che creino una riga orizzontale di blocchi senza interruzioni. Quando la riga è stata creata, i mattoni spariscono e i pezzi sovrastanti cadono a formare nuove linee. Alexei non mette un limite di tempo. Se il giocatore è bravo, può in teoria giocare in eterno. I tetramini cadono senza posa, la gravità domina questo puzzle elettronico. Alexei ricorda ancora i suoi primi momenti di gioco. Quando quello strano prototipo fu pronto per giocare, mi resi conto che non riuscivo più a smettere. Semplicemente rimanevo incollato allo schermo, sebbene la grafica fosse estremamente elementare e non avesse alcun appeal. Allora feci provare altre persone nel mio ufficio e compresi che non ero io che ero un cucù impazzito, con qualcosa di sbagliato nel cervello, perché tutti quelli che scoprivano questo gioco non riuscivano più a smettere. Alexei Pajitnov comprende subito di avere per le mani qualcosa di notevole, qualcosa a cui manca un elemento fondamentale però, un nome. sta proprio pensando a come chiamare quella strana creatura che ha messo al mondo, quel figlio elettronico. Sicuramente il prefisso tetra risulta interessante, diverso, facile da ricordare, ma non fa venire subito in mente che si tratta di un gioco. Alexei pensa e ripensa. Che cosa gli suggerirebbero i suoi tre magnifici consiglieri Galileo, Newton ed Einstein? Forse gli direbbero di pensare al gioco per eccellenza, la palla. Un ottimo consiglio, come sempre. Dall'unione di tetra e tennis nasce quindi il nome Tetris, una parola cosiddetta portmanteau, Macedonia, nata cioè dalla fusione di due parole diverse, come smog, che nasce dall'unione di smoke, fumo, e fog, nebbia. Il giovane ingegnere elettronico moscovita Alexei Pajitnov inventa un semplice ma accattivante gioco per computer. Lo chiama Tetris, dalla contrazione delle parole tennis e tetra, 4 in greco. Una sorta di puzzle fatto di pezzi di 4 quadratini ciascuno che cadono verso il basso dello schermo e devono essere posizionati in maniera da creare una riga senza buchi affinché il gioco possa proseguire. La grafica è molto rudimentale. Stiamo parlando del 1985, ci troviamo a Mosca e le possibilità a disposizione del sovietico sono limitate. Eppure il giochino ha un successo strepitoso, come ricorda ancora Mikhail Kulagin, programmatore e collega di Pajitnov all'Accademia delle Scienze. Nel nostro ufficio le persone iniziarono a riunirsi a giocare al Tetris. Ci fu un momento in cui praticamente tutto il computing center giocava a Tetris. Il successo del suo giochino fa riflettere molto Pajitnov. Come mai, si domanda il giovane, tutti si appassionano così tanto? Cosa c'è di tanto affascinante in quell'incessante flusso di tetramini che cadono verso il basso e vanno sistemati, impilati? È una domanda alla quale non sa rispondere, ma che è invece subito chiara per Yuri Yevtushenko, direttore del Computing Center dell'Accademia Sovietica delle Scienze. Quel Tetris piaceva davvero tanto. E molti dei nostri impiegati ne furono letteralmente rapiti, spesso con gravi ripercussioni sul loro rendimento lavorativo. Così mi misi a studiarlo e compresi perché. Tetris era differente da tutti gli altri giochi elettronici, specialmente quelli che arrivavano dall'America, che erano distruttivi. Bisognava uccidere, sparare, cacciare, annientare. Col Tetris vincevi se eri capace di costruire. L'analisi del successo di Tetris non si ferma però qui. Ricordiamoci che ci troviamo in un centro di ricerca scientifica, là dove sono raggruppate tutte le menti analitiche più eccelse di tutta la Russia. Si tratta di persone altamente qualificate, che non vivono semplicemente le proprie emozioni, ma le analizzano, le sviscerano, le studiano fino a conoscerne ogni più recondito significato. È così che si aprono nuovi scenari nel mondo di Tetris. È vero che è l'unico videogioco di quel tempo che invece di spingere a distruggere premia chi costruisce, ma c'è di più. In realtà si tratta di un gioco che ha una forte motivazione negativa. Il giocatore non vede ciò che ha fatto di buono, perché le righe completate spariscono. Quello che rimane sullo schermo sono gli errori che si commettono e si genera il desiderio di correggerli, come sperimenta il suo inventore in prima persona. Quello che hai davanti agli occhi tutto il tempo che giochi sono i tuoi errori, quegli odiosi buchi, e tu cerchi di metterli a posto. Decisi di installare Tetris nel computer di qualche amico. Accidenti, in 2 settimane non esisteva un singolo computer in tutta Mosca dove non ci fosse il mio gioco. In breve, Tetris si diffonde come un virus, da computer a computer, da amico ad amico, da collega a collega. Ma questo non significa in alcun modo un guadagno per il suo inventore. In Unione Sovietica non esiste il concetto di diritto d'autore. Le idee di ogni singolo individuo sono di proprietà comune, dello Stato, e possono usufruirne tutti in maniera libera. Pajitnov non ha nessuna percezione del fatto che Tetris possa essere considerato un prodotto, possa essere venduto, crei un profitto. È un concetto che semplicemente non ha alcun senso in Unione Sovietica in quegli anni. Il commercio di un prodotto è qualcosa che viene connesso solo ed esclusivamente allo Stato, non certo a dei singoli individui. L'iniziativa privata non esiste nella maniera più assoluta e se lo fosse sarebbe di sicuro punita con la prigione. Intanto, oltre la cortina di ferro, il mondo si sta evolvendo velocemente e i giochi elettronici sono oggetto di grande interesse da parte dei produttori, grazie all'enorme richiesta da parte del pubblico. Stanno anche nascendo le prime console per videogiochi. Tetris varca i confini dell'Unione Sovietica e fa gola a molti. È una miniera d'oro e non ha alcun vincolo legale, una vera manna per i produttori. Ecco cosa ricorda Randy Browalt, tecnico della Atari. Fui contattato da alcuni dirigenti della Maxwell Corporation, una società britannica di media business che volevano realizzare una versione di Tetris per console. Non mi posi nemmeno la questione se avessero i diritti di utilizzo, lo davo per scontato. Sembravano tutti pazzi per quel gioco. Lo studiammo per renderlo più gradevole dal punto di vista grafico, ma per il resto era fantastico. Si vendeva da solo. È il 1988. Tetris inizia ad avere una sua personalità e una sua vita in Occidente. Viene prodotto dalla Maxwell Corporation, pubblicizzato con lo slogan «Dalla Russia con amore» e presentato in varie fiere dell'elettronica. E tutto senza che il suo inventore, Alexei Pajitnov, intaschi un solo rublo. Questo non è un problema per il giovane ingegnere, preso com'è a studiare ben altro che giochini da fare nel tempo libero. Le missioni spaziali, le guerre nucleari, questi sono i temi che affronta ogni giorno in ufficio. Non si rende conto che sta subendo una grave ingiustizia. Ci sono aziende in America che stanno guadagnando parecchio con la sua invenzione e che iniziano anche a farsi la guerra per accaparrarsela. Mentre Alexei è intento ai suoi calcoli chilometrici con i quali riempie lavagne intere, mentre prosegue la sua vita di semplice scienziato del popolo sovietico, a molte centinaia di chilometri di distanza da lui, per la precisione a Tokyo, un giovane videogame designer olandese sta mangiando sushi con un suo committente, un dirigente della Nintendo. L'indomani, un aereo lo porterà a Las Vegas, al Consumer Electronics Show, una delle più importanti fiere di elettronica del mondo. È così che il giovane olandese si guadagna da vivere, gira il mondo alla ricerca di nuovi videogiochi da proporre alla grande azienda giapponese. Il suo nome è Hank Rogers. Hank Rogers. Tetris was probably the quietest game at the show. Tetris era il gioco più tranquillo, più silenzioso di tutto il Consumer Electronics Show, eppure aveva qualcosa. Iniziai a giocarci e semplicemente non potevo più smettere. Era come se andassi a toccare delle corde basilari del mio inconscio. Hank Rogers racconta così il suo primo incontro con Tetris. Mentre si trova lì, a quella fiera dell'elettronica di Las Vegas, nel cuore pulsante della patria dei giochi e del vizio, mentre tutto quello che lo circonda è multicolorato, pieno di suoni, di luci, di effetti, dove tutto è ridondante, aggressivo, ricco nella grafica e nei contenuti, quel semplicissimo giochino, quei mattoncini che cadono verso il basso incastrandosi tra di loro, lo colpisce come non gli è mai capitato prima. Hank non ha dubbi. Quel Tetris è una vera bomba. Ne acquista subito una confezione. Mentre osserva i visitatori della fiera che rimangono letteralmente incollati alla console, mentre guarda allungarsi sempre più la fila delle persone che vogliono giocare a quel semplice ed elementare giochino sconosciuto, Hank prende la decisione della sua vita. Telefona immediatamente all'aeroporto per cambiare la data del suo rientro a Tokyo e per poter partire l'indomani. Sa che non deve perdere nemmeno un giorno, non c'è tempo. Deve parlare subito di Tetris ai dirigenti Nintendo. Non sa che in Giappone lo attende un'incredibile sorpresa. Surprise, surprise. I told you lies. I thought the truth would set you free. Destini incrociati. Dopo aver dominato i salotti dei suoi clienti con le console da gioco, Nintendo decide di dominare anche tutti gli altri spazi. Le auto, i treni, gli aerei. È così che il team dei game designer di Nintendo creano il Game Boy, una console portatile. Anche se all'apparenza è un oggetto molto semplice, quasi frugale, rivoluziona completamente il mondo dei giochi portatili e diventa parte delle vite di tutti noi. Levi Buchanan, editor del Nintendo Team, racconta così il lancio di uno dei prodotti più venduti al mondo in assoluto, il Game Boy. Lanciato in Giappone nel 1989 e negli Stati Uniti ed Europa nel 1990, si calcola che abbia venduto 120 milioni di unità in tutto il mondo. I motivi del suo grande successo sono molteplici e in gran parte hanno a che fare con la storia che vi stiamo raccontando. Ma andiamo con ordine. Hank Rogers, giovane videogame designer olandese che gira il mondo per la Nintendo a caccia di nuovi videogiochi da produrre, mentre si trova al Consumer Electronic Show di Las Vegas, si imbatte in un giochino che egli reputa rivoluzionario, il Tetris. Decide così di parlarne all'istante con i dirigenti di Nintendo e anticipa il suo rientro in Giappone. Ma quando arriva a Tokyo, scopre con sua grande sorpresa che l'azienda sta per fare un investimento gigantesco, sta per lanciare il Game Boy. Non esiste nulla di analogo al mondo. Una console portatile non si era mai vista. È a questo punto che ha l'intuizione che cambia per sempre la sua vita. Pensai che se abbinavamo al lancio del Game Boy il giochino che avevo visto a Las Vegas, il Tetris, avremmo fatto il botto. Lo proposi ai dirigenti Nintendo che approvarono la cosa, ma mi dissero: «E i diritti del Tetris?» Hank Rogers non perde tempo e si attiva subito. Contatta la Spectrum Holobyte, la società il cui nome compare sulla scatola del Tetris che ha acquistato a Las Vegas. I suoi interlocutori però gli dicono che non possiedono i diritti, che forse sono della Mirror Soft, che è parte del Mirror Group della famiglia Maxwell. Hank li contatta, ma loro gli dicono che la licenza è di una certa società ungherese che si chiama Andromeda. Questo ping pong insospettisce Hank Rogers. C'è qualcosa che non quadra. Quando contatta Andromeda, Hank scopre che ha una sorta di accordo con il ministero sovietico, ma i suoi interlocutori sono evasivi. Accettano che lui gli mandi dei soldi per bloccare la trattativa del Tetris in attesa di un contratto definitivo, ma poi la tirano per le lunghe. Hank sente che c'è qualcosa di decisamente poco chiaro. Mandavo un fax ogni settimana e sono andato avanti così per più di 3 mesi. Poi ho cominciato ad innervosirmi perché non c'era una ragione che motivasse una trattativa tanto lenta. Mi rispondevano che dovevano andare in URSS, ma poi non andavano mai. Divenni sospettoso. Quello che Hank non può sapere è che in realtà Andromeda ha iniziato una trattativa con il ministero sovietico, ma non ha mai onorato il pagamento pattuito. E i referenti del ministero non hanno più fiducia nella società ungherese. Non essendo a conoscenza di questo particolare, Rogers interpreta la cosa in altro modo. Si convince che Andromeda voglia dare i diritti a qualcun altro e lui questo non può permetterlo. Mentre sta tornando a casa dopo il lavoro, riflette sulla situazione che sta vivendo. Questa specie di limbo nel quale si trova da troppo tempo gli va oramai stretto. Fin da quando è molto giovane, è abituato a prendere le cose di petto. Fa così quando decide di lasciare l'impresa familiare di suo padre, che è un commerciante di pietre preziose, per dedicarsi ai videogiochi. E fa così ogni qualvolta deve prendere una decisione, non ci pensa su 2 volte. Ecco perché fa una deviazione alla sua agenzia di viaggi, dove prenota un volo. Destinazione Mosca. Hank Rogers, giovane videogame designer olandese che lavora per la Nintendo, sta volando verso Mosca. Al Consumer Electronic Show di Las Vegas ha scoperto un favoloso gioco, Tetris, che è certo avrà un successo strepitoso. Decide di acquistarne i diritti per abbinarlo al lancio del Game Boy, la prima console portatile del mondo che Nintendo sta per immettere sul mercato. Un prodotto assolutamente nuovo, mai realizzato fino a quel momento da nessuno. Tetris è stato inventato da Alexei Pajitnov, un ingegnere elettronico sovietico che lavora per l'Accademia delle Scienze su progetti di grande importanza nazionale, quali le missioni spaziali o gli esperimenti nucleari. Tetris è per lui solo un giochino di scarsa importanza, che però fa gola a molti e che non è coperto da alcun brevetto. In Unione Sovietica qualunque invenzione è patrimonio dello Stato. Il Ministero Sovietico per i Software ha iniziato una trattativa per cedere i diritti di Tetris ad Andromeda, una società ungherese, ma l'affare non è andato a buon fine. Mentre è in volo verso Mosca, Hank Rogers non sa che sul suo stesso aereo c'è qualcun altro che sta per incontrare i rappresentanti del Ministero Sovietico. Era la prima volta che andavo in un paese oltre la cortina di ferro ed ero anche impreparato. Non solo non avevo alcun appuntamento, ma non sapevo nemmeno l'indirizzo a cui mi dovevo recare. Non avevo idea che anche Kevin Maxwell stava andando a Mosca, né che lui, invece, un appuntamento ce l'aveva e come. Non avevo mai trattato con i russi. Pensavo, ora vado là e me li faccio amici. Ma non è andata per niente così. Hank Rogers ha prenotato una camera all'Intourist Hotel davanti alla Piazza Rossa. Si sente spaesato, un pesce fuor d'acqua. La televisione non c'è, la radio non funziona e non può leggere niente, neanche le scritte più elementari, perché non sa il cirillico. La sua impressione della città è orribile. Non c'è un cartellone pubblicitario, le insegne dei negozi sono spente, è tutto grigio, come se i colori fossero stati risucchiati via. E poi Hank sta violando le leggi sovietiche, le quali impongono agli stranieri di fissare preventivamente gli incontri di affari, specificando il quando, il come, il dove e soprattutto il perché. Però lui non lo sa e riesce a farsi ricevere dal responsabile del ministero. È così che scopre che in realtà il Tetris non è ancora di nessuno. Si accomiata quindi dal suo interlocutore, fissando un appuntamento per il giorno dopo per definire il contratto. Mentre sta lasciando il ministero, nei corridoi, intravede per puro caso Kevin Maxwell. Ma allora i russi fanno il doppio gioco. Hank prende l'ennesima decisione di getto e alla fonte del Tetris che deve andare dal suo inventore. Mi chiamò questo Hank Rogers. Voleva parlarmi di quel mio giochino. Mi sembrò una cosa strana, diceva che voleva produrlo in Giappone e venderlo in tutto il mondo. Diceva anche che c'erano altri interessati e per questo aveva fretta di parlarmi. Non ci capii molto, ma il telefono era simpatico, così accettai di incontrarlo. Lui sapeva tutto del Tetris, ci giocava sempre, gli piaceva sul serio. Era un tipo davvero divertente. Facciamo subito amicizia. Alexei Pajitnov ricorda bene il suo primo incontro con Rogers. I due non sembrano i rappresentanti di una possibile partnership commerciale, sono più semplicemente due giovani ai quali piacciono i videogiochi. Feci amicizia con Alexei immediatamente. Era l'amico che stavo cercando in Russia. Ci incontrammo quella sera stessa dopo la mia telefonata e ci mettemmo subito a parlare di giochi. Parlammo di quello che potevamo fare per Tetris e di tante altre cose. Avevamo un sacco di interessi in comune. Hank spiega subito ad Alexei la sua posizione. Forse non ha a disposizione tutti i soldi che gli potrebbe offrire la Maxwell, ma gli propone un contratto onesto, trasparente. Spiega al suo nuovo amico russo che saranno fatti conteggi sulle vendite e lui percepirà esattamente la percentuale pattuita, senza segreti o misteri di sorta. La sua simpatia e la grande onestà con la quale si pone di fronte alla trattativa conquistano Pajitnov, che per la prima volta partecipa in prima persona a un incontro al Ministero Sovietico per i Software. In breve tempo l'accordo viene firmato e Rogers riparte per il Giappone con il contratto in tasca. È soddisfatto. Non solo ha ottenuto quello che voleva e che non era affatto semplice realizzare, ma si è anche fatto un nuovo amico. Peccato che la Atari stia già producendo una sua versione di Tetris per console portatile su licenza della Mirrorsoft di Kevin Maxwell, come racconta Randy Browalt di Atari Games. Avevamo prodotto già 500.000 di unità impiegando le nostre migliori risorse umane. Avevamo anche investito una somma considerevole in comunicazione. Inutile dire che la questione atterra sulle scrivanie dei rispettivi avvocati. La causa Atari Nintendo diventa di dominio pubblico. Ne parlano i giornali, le televisioni, le riviste di settore. Ma come appare evidente fin da subito, è la Nintendo che vince su tutti i fronti. Hank Rogers si sente al settimo cielo. Mentre sta leggendo i resoconti della causa che gli ha fornito lo studio legale, il suo pensiero va a Mosca. E Alexei Pajitnov. Fino a questo momento, lui, che è l'inventore di Tetris, è l'unico a non averci guadagnato nulla. Tetris è di proprietà del governo dell'Unione Sovietica e a Pajitnov non arriva nemmeno un rublo dell'altissima percentuale sulle vendite che il governo percepisce da Nintendo nei mesi successivi. Hank Rogers non può accettare una cosa del genere. Lui aveva parlato in maniera differente col suo amico russo. Gli aveva detto che si sarebbe trattato di un contratto trasparente. Non è certo colpa sua se il governo sovietico si comporta così, ma si sente responsabile per non avere messo in guardia il suo amico. Oramai per Alexei non è più tempo di stare in Unione Sovietica. Hank gli organizza il trasferimento a Seattle. Dovevo assolutamente trovare un lavoro perché senza stipendio non potevo stare. Dovevo mantenere la mia famiglia e non avevo soldi. Hank mi aiutò. Andai a lavorare per Microsoft. Realizzavo giochi e mi trovavo bene. Ero molto sicuro di me e di quello che ero capace di fare. Non sentivo nessun tipo di contraddizione interna. Non ero pentito di aver lasciato l'Unione Sovietica o il mio lavoro di scienziato. Ero in pace. La storia fa il suo corso, come ben sappiamo. l'Unione Sovietica cessa di esistere. E sono molte le cose che cambiano. Fra queste, dopo 10 anni dalla firma del contratto con Nintendo, i diritti di Tetris tornano al suo legittimo inventore. Finalmente, nel 1996, Alexei Pajitnov inizia a ricevere i proventi delle vendite del suo fortunatissimo videogioco. Quando giunge la comunicazione di questo nuovo corso della storia del Tetris, Pajitnov stenta a crederci. Lui non ha mai guadagnato niente da quell'invenzione che tutto il mondo conosce grazie all'amico Hank Rogers. Le cose si evolvono rapidamente. Pajitnov diventa ricchissimo nel giro di pochi mesi e decide di fondare insieme a Hank la Tetris Company con sede alla Hawaii, società che da allora possiede tutti i diritti in esclusiva del gioco. Una favola a lieto fine, non c'è che dire. Ma se pensate che le sorprese che ha in serbo per voi questa storia siano finite, avrete modo di ricredervi. Tra poco, qui, a Destini Incrociati. When it's black, take a little time to hold yourself. Take a little time to feel around before it's gone. Won't let go, but still keep on falling down. Remember how you saved me now. Destini incrociati. Aveva percorso queste strade tutta la vita, pensò. Quando chiuse gli occhi, vide l'asfalto muoversi e i suoi stivali ondeggiare dentro e fuori dal suo campo visivo. È un passo del romanzo Espiazione di Ian McEwan, dove l'autore racconta la sensazione che prova un suo personaggio riconducibile a quello che viene definito effetto Tetris. Ma di cosa si tratta? Oggi Destini Incrociati vi sta raccontando una storia fatta di amicizia. Quella fra Alexei Pajitnov, ingegnere elettronico sovietico che inventa il notissimo videogame Tetris, e Hank Rogers, videogame designer olandese che lavora per la Nintendo e che scopre per caso Tetris, lo trova strepitoso e riesce a farlo conoscere in tutto il mondo, decretandone un successo che dura ormai da 26 anni. Tetris, venduto inizialmente in abbinata al Game Boy in occasione del suo lancio, diventa un classico dei videogiochi insieme a star del genere quali Super Mario o i Pokémon. Successi stellari che garantiscono ai rispettivi produttori e ideatori guadagni astronomici. L'enorme diffusione dei giochini per cellulari dà un ulteriore impulso alle vendite di Tetris, se mai ce ne fosse bisogno. Il gioco inventato da Pajitnov è senza ombra di dubbio il videogame numero uno di tutti i tempi per i cellulari e non finisce di stupire il suo inventore. Sono sinceramente sorpreso della capacità di resistenza di Tetris. L'ho inventato così tanti anni fa e il mondo è così cambiato. Eppure il gioco che sta avendo oggi tanto successo anche sui cellulari più sofisticati è né più né meno quello che ideai allora. Ogni anno si disputano in tutto il mondo decine e decine di campionati nazionali di Tetris, oltre al campionato mondiale che si tiene nel campus dell'Università della South California, dove i migliori giocatori si contendono a colpi di tetramini i $5,000 in palio e l'ambito trofeo che è la forma del tetramino T. Ma non basta. La diffusione così capillare di Tetris praticamente in ogni paese del globo, la sua universalità che lo rende il videogame non solo più giocato al mondo, ma il più amato da un pubblico estremamente eterogeneo, ne fa un fenomeno di costume e di impatto sociale altissimo. Un vero fenomeno di massa che come tale attira su di sé l'attenzione di psicologi, sociologi, comportamentisti ed esperti in salute sociale. In particolare, l'associazione no profit The Mind Research Network di Albuquerque, New Mexico, ha effettuato uno studio sul Tetris, dal quale emerge che il videogame farebbe bene al cervello dei giocatori, rendendolo più efficiente e producendo una corteccia cerebrale più spessa. Your brain. L'associazione no profit The Mind Research Network di Albuquerque, in New Mexico, ha effettuato un approfondito studio sugli effetti del famosissimo videogame Tetris. Alcuni ricercatori hanno osservato con la risonanza magnetica cosa succedeva nei processi corticali quando i partecipanti all'esperimento giocavano a Tetris per un determinato periodo. I partecipanti, adolescenti tra i 12 e i 15 anni, erano sottoposti a risonanza magnetica prima, durante e alla fine della sessione sperimentale e del periodo complessivo. I risultati parlano chiaro. Sembra che il Tetris apporti un significativo contributo nell'addensare la massa corticale in alcune zone e potenziare i network neuronali e la rete funzionale che controllano. Specificatamente, è stato messo in evidenza che dopo aver giocato per 3 mesi si osservano dei cambiamenti strutturali e dei cambiamenti funzionali. Insomma, quando intraprendiamo un compito così impegnativo come quello di decidere la mossa giusta nel più breve tempo possibile, inizialmente consumiamo più energia, fino a quando il successo ci permette di svolgere il compito in maniera efficiente e con minimi costi di lavoro. Questi studi hanno portato alla definizione del cosiddetto effetto Tetris, di cui parla Ian McEwan nel suo libro Espiazione, che abbiamo citato prima. Un comune fenomeno psicologico, per cui un'attività che richiede un alto livello di attenzione può influire in modo incongruo sui processi di pensiero, le immagini mentali e i sogni di coloro che vi si dedicano per lungo tempo. Chi gioca per lunghi periodi di tempo a questo gioco può essere portato a ragionare involontariamente sui modi di impilare oggetti del mondo reale, come le confezioni che vede sugli scaffali di un supermercato o gli edifici di un quartiere, come racconta il professor Sean Acker, notissimo psicologo americano, durante una sua lezione alla Harvard University. Le persone che giocano per molto tempo a Tetris subiscono quello che è stato definito appunto effetto Tetris. Vanno al supermercato, vedono i prodotti e il loro cervello parte subito a organizzarli. Ah, quel gruppo ha quella data forma, quell'altro un'altra forma. Ecco, pensano di metterli insieme e sono contenti perché, oh, ho completato una linea. È lo stesso fenomeno di quando guardiamo il sole e poi ci rimane impressa sulla retina l'immagine. Avete presente? Ecco, lo stesso succede al vostro intero cervello col Tetris. Un esempio di questo effetto è l'arte di Michael Johnson, scultore svedese che crea installazioni simili a ripostigli o armadi a muro dove trovano posto gli oggetti più disparati impilati in maniera ossessiva. Chissà se Alexei Pajitnov avrebbe mai potuto immaginare che i suoi tetramini sarebbero arrivati a tanto, o se Hank Rogers aveva idea che quel suo viaggio a Mosca per conoscere l'inventore del Tetris avrebbe scatenato un fenomeno simile. Molto improbabile. Di certo, si tratta di due uomini che hanno saputo dare valore al loro incontro e alla loro amicizia istintiva, costruendo qualcosa di importante, che ha saputo perfino abbattere l'impenetrabile cortina di ferro. Seconds, hours, so many days, you know what you want, but I'm locking you away. Every moment lasts forever, when you feel you lost your way. What if my chances were already gone? I started believing that I could be wrong. But you gave me one good reason to fight and never walk away.